Storie italiane. Cappuccetto Rosso. C'era una volta una piccola bambina che viveva in un piccolo villaggio. Aveva l'abitudine di indossare un cappuccio rosso e per questo motivo tutti quanti la chiamavano Cappuccetto Rosso. Cappuccetto Rosso! Cappuccetto Rosso! Cappuccetto Rosso! Sì, mamma! Sono qui! Che stai facendo? Mangi ancora della cioccolata? No, mamma! Non dire bugie! Prendi questo cestino e vai a casa della nonna. La nonna non sta bene, ho preparato per lei queste delizie. Sì, mamma, ma se ci vado mi dai dei cioccolatini? Tu sei un mostro di cioccolata! La mamma le diede diversi cioccolatini. Aspetta, mi raccomando, piccola mia, non parlare con gli sconosciuti. Ok, mamma, ubbidisco! Cappuccetto Rosso uscì cantando allegramente, mentre si dirigeva a casa della nonna. Jingle bell, oh che bello andare col cavallo sulla neve bianca! Jingle bell, oh che bello andare, scivolando con la slitta nel silenzio andiamo! Improvvisamente un enorme, pauroso grande lupo apparve davanti alla piccola. Cappuccetto Rosso era molto spaventata. Bambina, dimmi, dove vai così di fretta? Vado a trovare la mia povera nonna, signor lupo. È così, Capisco. E quel bel cestino? Cosa contiene quel cestino? Del latte e della frutta per mio nonna, sì. Ah, sei una bambina molto dolce. Ti prendi cura della tua nonnina. Dove vive la tua nonnina? Laggiù, vicino alla chiesa. Il lupo nella sua mente architettò un piano malvagio per mangiare la bambina. Brava bambina. Perché non raccogli dei fiori freschi per la nonna? Oh. Ci sono molti fiori profumati e belli nella foresta. Wow! Questa è un'idea fantastica! La nonna sarà molto felice e mi darà tanti cioccolatini. Vado a raccogliere tanti fiori. Ok, vai pure, io torno a casa. Grazie, signor lupo! Ciao! Cappuccetto Rosso entrò nella foresta per raccogliere tanti bellissimi fiori. Che bel bocconcino! Sono molto affamato. Che idea! Prima vado a casa della nonna, la mangio e quando arriva la piccola toccherà anche a lei. Il grande lupo cattivo corse a casa della nonna mentre Cappuccetto Rosso era occupata a raccogliere i fiori. Raggiunse la casa della nonna e bussò alla sua porta. Chi è? Entra, entra! Credo che sia arrivata la mia piccola bambina. La nonna aprì la porta. Il lupo l'afferrò, spalancò la sua grande bocca e la inghiottì in un sol boccone. Deliziosa la nonnina. Il lupo rubò i vestiti della nonna dalla credenza, li indossò e prese il posto della nonna. Giaceva sul letto, in attesa di Cappuccetto Rosso. Nel frattempo, Cappuccetto Rosso era sempre più vicina. Grazie per tutto questo, sì. Grazie per il cibo che è qui. Grazie per gli uccelli che cantano. Grazie a Dio per tutto, sì. Quando Cappuccetto Rosso raggiunse la casa, entrò e si sedette accanto alla sua nonna. Come stai, nonna? Non mi sentivo bene, ma ora che ti ho vista mi sento molto meglio, piccola bambina mia. Oh, nonna! Che occhi grandi che hai! Così posso vederti meglio, piccola mia! Ma che orecchie grandi che hai! Per poterti sentire meglio, piccola mia! Nonna, che denti grandi che hai! Oh, per mangiarti meglio! Di scatto il lupo cattivo fece un balzo dal letto e mangiò in un sol boccone Capuccetto Rosso. Così il lupo, sazio dopo aver mangiato, si sdraiò di nuovo sul letto. Ben presto si addormentò e cominciò a russare rumorosamente. Il taglialegna sentì russare mentre passava davanti alla casa. È strano che la nonna russi così forte. Meglio andare a controllare. Così entrò nella stanza, si avvicinò al letto e vide il lupo sdraiato. Finalmente ti ho trovato, vecchio lupo cattivo. Ti do la caccia da molto, molto tempo. Il taglialegna notò che lo stomaco del lupo si muoveva e pensò che il lupo avesse inghiottito la nonna e che forse lei poteva essere ancora viva. Così prese un paio di forbici e tagliò la pancia del lupo fino allo stomaco. Quando aprì la pancia del lupo, la piccola Capuccetto Rosso si iniziò ad intravedere e venne fuori piangendo. Oh mamma, che paura ho avuto! Era così buia dentro la pancia del lupo! Dalla pancia uscì anche la nonnina, ancora in vita. Capuccetto Rosso andò a prendere alcune pietre di grandi dimensioni per riempire lo stomaco vuoto del lupo. Il taglialegna infine cucì di nuovo la sua pancia. Presto il lupo si svegliò e tutti si nascosero. Il lupo si guardò intorno e non trovò nessuno. Subito uscì di casa. Com'è pesante il mio stomaco! Credo che la vecchia nonna sia molto dura da digerire. Dopo qualche minuto si stancò e cadde a terra a causa del peso. La nonna, Capuccetto Rosso e il taglialegna lo seguirono. Era così assetato che si diresse vicino al fiume. Mentre si chinava per bere dell'acqua, a causa del grande peso scivolò e cadde dentro al fiume. Aiuto! Aiutatemi! La nonna, Capuccetto Rosso e il taglialegna videro il lupo cattivo annegare. No! Questa è la tua giusta punizione, lupo cattivo! Aiuto! Aiutatemi! Erano tutti molto felici. La nonna ringraziò il taglialegna per aver salvato le loro vite. Gli chiese di accomodarsi con loro per mangiare la torta. La piccola Capuccetto Rosso era in fermento, ma la nonna la fermò. So che adori mangiare le torte e i cioccolatini, ma prima di iniziare a mangiare la torta, piccola mia, devi cantare una canzone per il signor Taglialegna, perché oggi lui ci ha salvato la vita! Oh, hai ragione, nonna! Oggi il buon Dio ci ha aiutati! Grazie, signor Taglialegna! Canterò una canzone! Così cominciò a cantare. Grazie per tutto, questo sì! Grazie per il cibo che è qui! Grazie per gli uccelli che cantano, grazie a Dio per tutto, sì! Tutti risero e mangiarono la torta. Capuccetto Rosso promise a se stessa che non avrebbe mai più passeggiato da sola nel bosco e che avrebbe ubbidito a tutti i consigli della sua dolce mamma.